Da bambino il bene più grande che hai è l'ingenuità, e poi se ne va, e in te non resta più. Una folla che corre.